2024 di Enrico Pagliarini. Questa è l'ultima puntata del mese di ottobre. Bentornati o benvenuti a 2024, il programma di tecnologia di Radio 24. Alcune coordinate per raggiungerci: il nostro indirizzo di posta elettronica 2024@radio24.it. Il nostro sito internet continua a ricevere email di gente che mi chiede informazioni che sono disponibili sul nostro sito internet. Magari prima un'occhiata datela lì. Poi Twitter e anche Facebook, cercate 2024 o Enrico Pagliarini. Dunque, mentre i progetti di diffusione della banda larga in Italia rischiano lo slittamento al prossimo anno, parliamo dei bandi che mettono a disposizione le risorse per gli operatori che vogliono costruire infrastrutture, quindi posare fibra ottica nelle zone a fallimento di mercato. Questo è un capitolo su cui torneremo, ma da un po' di tempo non ne parliamo perché non ci sono grandi notizie. Allora, mentre accade tutto ciò in Parlamento, si tenta di mettere una pezza ad un articolo della legge di stabilità, parliamo dell'articolo 29, che vorrebbe dimezzare, pensate, dimezzare gli investimenti della pubblica amministrazione in tecnologia. Attualmente stiamo parlando di una cifra poco superiore ai 5 miliardi, divisi a metà fra connettività, perché gli uffici della pubblica amministrazione devono connettersi tra di loro e a internet, e altre voci come software, hardware, eccetera, eccetera. Si vorrebbe quindi spendere meno in IT che, come spesso diciamo, come dicono i nostri esperti, ma insomma questo è un dato oramai assodato, è un fattore abilitante per rendere più efficiente la macchina dello Stato, oltre che le aziende, e per in prospettiva spendere meno in generale, diventando più efficienti. Consideriamo tra l'altro che già oggi la spesa pro capite in Italia per l'information technology della pubblica amministrazione è di 85 euro, mentre in Francia si sale a 186, Germania 207, fino ai 323 euro della Gran Bretagna. Beh, sicuramente è irresponsabile, non si capisce chi abbia scritto questa norma all'interno del governo, un folle. Speriamo che il Parlamento, questo lo stanno dicendo tutti gli esperti sperano che il Parlamento approvi un correttivo, oppure che il governo capisca di avere scritto una stupidaggine e presenti un emendamento per correggere. Non sarà solo un problema per lo Stato, ma anche per le migliaia di aziende e di professionisti che lavorano in questo settore, che è uno dei più importanti anche in Italia. Allora, non c'è dubbio che di razionalizzazione ce n'è bisogno, magari anche tagliando le gambe a certi lobbisti che vendono tecnologia sulla base di relazioni e non di competenze tecnologiche, e purtroppo ce ne sono ancora moltissimi, anche di grandi aziende che intessono relazioni piuttosto che vendere tecnologia. Poi c'è anche una ignoranza diffusa in certi ambienti della pubblica amministrazione, quindi puoi far abboccare i pesci, è molto facile. Su questo bisogna operare, anche su altre forme di razionalizzazione, ma usare la mannaia così in generale mi sembra poco sensato. Questa settimana non ci sono state tantissime notizie importanti per il mondo IT, ma come sempre le più importanti le condensiamo nelle nostre Digital News. Digital News. La prima notizia riguarda Facebook, della serie mettersi nei panni del cliente per servirlo al meglio. Allora, Facebook ha lanciato il martedì 2G. 2G Tuesday. In questo giorno della settimana i dipendenti, quando accendono l'applicazione di Facebook, possono scegliere un'opzione che simula la navigazione in 2G, quindi piuttosto lenta, che è l'abituale connessione degli utenti Facebook in molti paesi del mondo, soprattutto i paesi in via di sviluppo. L'obiettivo è sensibilizzare soprattutto gli sviluppatori per creare applicazioni molto più snelle di quelle attuali. E questo avrebbe senso anche nel mondo occidentale, non solo nei paesi in via di sviluppo. Internet X, che è una società che ha origine in Germania, ha lanciato in Italia una nuova estensione per i domini internet. Si tratta del .srl, che è dedicato esclusivamente alle imprese legalmente registrate come SRL, cioè società a responsabilità limitata. Nel mondo ne esistono 4 milioni, quindi un mercato piuttosto ampio, di cui circa 800.000 in Italia. La forma giuridica dell'SRL è molto diffusa in Sud America, soprattutto in Argentina, Messico, Panama e Paraguay. in Europa lo è in Italia e in Spagna. Il punto SRL si può registrare presso i più importanti servizi di registrazione ai domini web. IBM ha annunciato l'acquisizione di The Weather Company, che ha anche The Weather Channel, ma The Weather Channel, il canale televisivo sulle previsioni del tempo, non è oggetto di questa acquisizione. Comunque la società è una delle più note al mondo di previsioni meteo, ha un database di circa 3 miliardi di località in tutto il mondo. E perché IBM se la compra? Allora, integrerà i dati meteo all'interno del sistema di intelligenza artificiale Watson. Su questo IBM sta lavorando molto, perché bisognerà trovare nuovi sbocchi per questa tecnologia. Ovviamente il meteo è una dimensione molto importante sia nella vita ma anche nel business, quindi è un dato utile per tante cose che, combinato assieme ad altre informazioni, può ampliare e migliorare sicuramente molti servizi. L'ultima notizia riguarda il mondo dell'informazione. Il britannico Sun, che è il più venduto in Gran Bretagna, ha deciso di eliminare il paywall, il filtro che dopo un certo numero di pagine lette su internet chiede di pagare un abbonamento. Il giornale, che come dicevo è il più venduto in Gran Bretagna, non ha raggiunto i risultati sperati. Per ora i grandi giornali che riescono a farsi pagare anche online sono il Financial Times, il New York Times, il Wall Street Journal e il Times. Adesso parliamo della radio. Questa settimana sono stati presentati alcuni dati, è stata presentata la prima ricerca di base sul mondo della radio in Italia come mezzo di comunicazione, che sta vivendo una seconda giovinezza, potremmo dire così. Beh, ci sono alcuni dati interessanti: che la radio rimane ancora oggi il secondo mezzo di comunicazione di massa dopo la TV, anche se la TV non se la sta passando benissimo. Invece la radio sta vivendo un buon periodo. Ne abbiamo parlato di questi dati che sono stati presentati con Nora Schmitz, che è responsabile delle ricerche sui media all'interno di Ipsos. La ricerca è stata realizzata appunto da Ipsos e GFK. Gli ascoltatori della radio sono l'84% della popolazione, quindi una massa molto molto importante, e circa il 58% l'ascolta quasi tutti i giorni. Il mondo dei mezzi di comunicazione è profondamente cambiato in questi ultimi anni e è sempre più forte la fruizione dei mezzi da una qualsiasi piattaforma e da una molteplicità di dispositivi diversi. Questo ha costituito una minaccia per molti mezzi di comunicazione, ma non per la radio. La radio è riuscita a mantenersi in sintonia con questa evoluzione tecnologica, trasformando questi potenziali elementi di pericolo invece in aggiuntivi punti di accesso con il mezzo, e questo è un aspetto molto molto importante. Il 25% degli ascoltatori della radio ascolta la radio non tramite l'autoradio o la radio tradizionale, ma tramite i nuovi dispositivi, le nuove piattaforme di ascolto. E quali sono? Beh, la televisione. Certo, la televisione non è un mezzo nuovo, è un mezzo antico, però è nuovo come piattaforma di ascolto della radio. Il tablet, il PC, lo smartphone, il lettore MP3. Quindi di fatto sono nuove opportunità di ascolto che hanno consentito alla radio di mantenersi fedele a una sua vocazione molto forte, la sua capacità di essere duttile, di seguire le persone nella loro quotidianità, accompagnandole nelle loro attività quotidiane. E questo è molto importante proprio perché passa attraverso l'offerta di nuovi dispositivi come per esempio il telefono cellulare. Chi ascolta tramite smartphone, tramite questi nuovi, che poi non bisognerebbe più nemmeno chiamarli nuovi, tramite questi strumenti, sono nuovi ascoltatori o sono gli stessi ascoltatori che cambiano la modalità di ascolto? Ma un mix di cose, nel senso che del 25% che ascolta la radio tramite i nuovi dispositivi, il 20% lo fa alternando vecchi e nuovi dispositivi, quindi possiamo supporre che si tratti di ascoltatori che erano già nell'orbita del mezzo e che aggiungono nuove opportunità. Il 5% però ascolta la radio solo tramite nuovi dispositivi. E poi bisogna dare uno sguardo attento ai giovani, i giovani ascoltatori. Molto spesso si è sentita la preoccupazione che la fascia giovane della popolazione perdesse un po' il contatto con la radio, che è un mezzo così anche antico volendo. In realtà sono proprio i giovani che colgono appieno le nuove opportunità di esposizione create dai nuovi dispositivi e le utilizzano proprio per aumentare questa caratteristica di flessibilità, di duttilità della radio, che si può piegare quindi alle tue abitudini, alle tue esigenze. Per esempio, una quota importante di giovani ascolta la radio tramite telefono cellulare, stiamo parlando del 28% del totale, una quota importante importante di giovani lo fa tramite la cuffia, il 30% del totale, e una parte importante di questi giovani lo fa anche magari a casa, non solo perché è in movimento, ma proprio perché sceglie di ascoltare con questa modalità così personal, e fa diventare la radio quindi non solo un mass media, ma un personal mass media che si piega alle esigenze di questo pubblico così esigente. Noi stiamo parlando in una talk radio, Radio 24 è una radio parlata, però lo sappiamo benissimo, gran parte delle radio sono radio musicali. Avete fatto un'analisi anche sul rapporto che i consumatori hanno con la musica e con la radio. Che cosa avete scoperto? Beh, una cosa molto interessante. Intanto la massa di persone che ascolta la radio in formati digitali è il 26% del totale, quindi si tratta di una massa veramente ormai critica. Molto spesso questo ha condotto a una preoccupazione sul futuro della radio, come se ci fosse una competizione tra la musica digitale e la radio, e quindi una sorta di trade-off che l'utente fa tra una forma o l'altra di intrattenimento. In realtà la nostra indagine ci ha sentito di capire una cosa molto importante, che queste due forme di intrattenimento in realtà convivono in modo molto felice. Il 90% di chi ascolta la radio, la musica in formati digitali, ascolta anche la radio, e si tratta ancora una volta molto spesso di giovani. Ti faccio due domande specifiche su due cose che io seguo da tanto e che anche i nostri ascoltatori, soprattutto quelli che ascoltano la trasmissione che stiamo, all'interno della quale noi siamo, 2024, che ascoltano e che utilizzano: podcast e radio digitale DAB, la digital radio. A che punto siamo arrivati? Inizio con la seconda. La radio digitale in Italia in realtà sta avendo una partenza un po' lenta, ed effettivamente ha raggiunto una massa abbastanza piccola in questo momento della popolazione. Il 2% del totale ascolta la radio tramite DAB. Questo non può stupire, perché il percorso evolutivo è in atto ed è un fenomeno che quindi seguiremo nelle prossime edizioni con grandissima attenzione. L'altro elemento riguarda invece i podcast. Beh, i podcast sono importanti di per sé, soprattutto nel rapporto con i giovani, che hanno l'abitudine proprio nella loro relazione profonda con i mezzi di comunicazione di poter scegliere il momento della fruizione, perché il podcast dà la possibilità di fruire di contenuti d'archivio. In questo momento circa un 3% del totale ascolta i podcast, molto di più i siti web vengono utilizzati invece come piattaforme aggiuntive per l'ascolto della radio live. Anche questo però è un fenomeno che andrà seguito in futuro. Questa era la voce di Nora Schmitz, che è responsabile delle ricerche sui media all'interno di Ipsos, quando parlava di TV, cioè dell'ascolto della radio attraverso il televisore, tramite il digitale terrestre, ma anche tramite alcune piattaforme come Sky. Ad esempio, sul canale 700 di Sky ci sono le radio e anche Radio 24, quindi questa è sicuramente una modalità. A me non piace molto, secondo me bisogna ascoltare la radio nella vecchia modalità con uno strumento radio, magari con una radio digitale DAB. Bellissime, ce ne sono alcune meravigliose, quindi vi invito ad acquistarle. Il DAB è un sistema di diffusione digitale che già copre il 70-75% del territorio italiano. Direi che il nord Italia è ampiamente coperto, soprattutto per le zone in esterna, quindi è pensato per la mobilità, ma controllate sul sito digitalradio.it se la vostra zona è ben coperta anche all'interno degli edifici. Beh, può essere un buon modo per cambiare radio. Comunque, mal che vada, le radio che hanno il DAB, quindi la digital radio, possono sintonizzare anche l'FM. Però è bellissimo, ormai ascolto solo con questo strumento. Devo anche dire che molte delle considerazioni che si stanno facendo sul mondo della radio penso siano dovute al fatto che la radio forse è per alcuni versi un po' in ritardo rispetto al mondo degli altri, rispetto ad altri media, nella trasformazione verso il digitale, proprio perché la stragrande maggioranza dei nostri ascoltatori sono in automobile, e nelle automobili, nella stragrande maggioranza delle automobili, la radio è ancora quella della vecchia maniera, spesso analogica. Ci sono già le nuove automobili con la radio digitale, ma il broadcast è la modalità con cui viene ascoltata la radio. Nel momento in cui un elevato numero di automobili avrà una radio connessa ad internet, beh, lì si apriranno dei giochi molto più interessanti, dove nuovi player entreranno nel mercato, dove sarà molto più facile fare cose diverse, offrire anche altri canali, e sicuramente le radio, i produttori, gli editori radiofonici avranno moltissime chance, però è innegabile che aumenterà anche la concorrenza e la scelta dei consumatori, quindi lì succederanno cose molto interessanti. Dunque, tra poco parleremo di roaming e neutralità della rete, perché sono state prese alcune decisioni importanti questa settimana dal Parlamento europeo. Adesso invece parliamo del supermercato del futuro, perché si chiude Expo e una delle, a proposito di tecnologia, una delle novità più interessanti è rappresentata dal supermercato del futuro all'interno del Future Food District realizzato e presentato da Coop. Non ho visto altro di strabiliante a livello tecnologico all'interno di Expo, invece questo è sicuramente stato un esperimento molto interessante. Allora, che cosa è il supermercato del futuro, ma soprattutto che cosa se ne farà Coop, ma non solo Coop, tutto il mondo che si occupa di distribuzione dei supermercati, di queste tecnologie che sono state sperimentate e presentate. Ne abbiamo parlato con Gabriele Tubertini, che è responsabile dei sistemi informativi di Coop Italia, nonché del progetto che è stato realizzato in Expo 2015. Per Coop l'esperienza del supermercato del futuro è stata una fantastica occasione per fare un laboratorio in cui testare le nuove tecnologie di interazione tra clienti, prodotti e ambiente. Gli elementi principali che abbiamo elaborato, le suggestioni principali che abbiamo creato insieme appunto a Carlo Ratti, che è il progettista di questa importante realizzazione, sono fondamentalmente due. La prima è che attraverso la tecnologia abbiamo ricreato uno spazio che ha riportato i visitatori all'interno di un mercato, non più un supermercato, quindi un luogo con molte meno barriere visive, perché siamo riusciti a ridurre tantissimo l'altezza degli scaffali, permettendo comunque un livello di servizio sempre comunque elevatissimo. Perché? Perché il supermercato ha un magazzino posizionato al di sotto del piano di vendita, quindi i prodotti sono stoccati in prossimità del punto dove devono essere riassortiti, e questo consente di avere una rotazione molto più veloce dei riapprovvigionamenti, facendo sì che non abbiamo più bisogno di scaffali alti 2,80 m che sono delle barriere alla visuale, ma bastano dei tavoli molto alti, massimo 1,40 m, 1,50 m, quindi la vista si riapre e si ha quell'effetto di mare di prodotti che credo che tutti coloro che hanno visitato il nostro padiglione in Expo abbiano potuto apprezzare. Quindi più simile a un mercato che a un supermercato. Esatto, l'idea è proprio la storia di questo progetto è proprio che attraverso la tecnologia abbiamo riportato i supermercati ad essere dei mercati, i mercati dell'Ottocento, i mercati del Medioevo. E in quei mercati i venditori, i negozianti sapevano raccontare la storia dei loro prodotti ai loro clienti, e anche qui abbiamo voluto usare la tecnologia per ricreare fondamentalmente lo stesso tipo di esperienza attraverso dei sensori di movimento che permettono un'azione intuitiva indicando il prodotto su degli schermi posizionati immediatamente al di sopra degli occhi del cliente. Nel momento in cui lui indica il prodotto, parte un'animazione che gli racconta tutta la storia del prodotto. Quindi basta indicare il prodotto, non solo prenderlo in mano. Basta indicare il prodotto, quindi con un gesto molto semplice che anche un bambino riesce a comprendere, si attiva una presentazione animata sui video che fornisce al cliente tutte le informazioni che lui vuole conoscere di quel prodotto, e non solo quelle che sono in etichetta, certamente anche quelle che sono già in etichetta, rendendole più fruibili, perché l'etichetta molto spesso deve scontare dei limiti legati alla dimensione del prodotto stesso, quindi a volte le scritte finiscono in aria al 2 e ci vogliono degli occhiali spessi o delle lenti di ingrandimento per leggere i valori nutrizionali. Invece sugli schermi sono leggibilissime, ma abbiamo aggiunto anche delle informazioni nella logica che vanno nel percorso della trasparenza che Coop ha sposato già da anni col progetto Origini, e abbiamo introdotto anche delle informazioni specifiche per i prodotti in vendita in Expo legate al carbon footprint. Si parla tanto dell'impatto ambientale, il tema di che cosa significa un consumo consapevole. Bene, qui in Expo per ogni prodotto abbiamo indicato qual è il carbon footprint, quindi qual è l'impronta che quel prodotto ha sull'ambiente, quanta anidride carbonica si produce nella realizzazione di quel prodotto. Naturalmente stiamo parlando di un monitor che ha una dimensione di 40 pollici. Ecco, ma se due o tre clienti indicano il prodotto sotto lo stesso monitor, che cosa succede? No, il sistema è stato realizzato in modo tale che questi sensori di movimento, che sono dei Kinect, come possiamo trovare in tantissime case del mondo per fare giochi elettronici, gaming e entertainment, sono stati tarati in modo tale che riconoscono il primo esoscheletro che li ingaggia. Adesso non voglio essere troppo tecnologico, ma praticamente la prima persona che si mette di fronte al sensore viene ingaggiata dal sensore, il quale segue e si mette a seguire i movimenti di solo quella persona. Questo è stato uno degli elementi, hai toccato uno degli elementi più critici del progetto di prototipazione e di sviluppo della soluzione, perché proprio dovendo posizionare questi sensori di movimento all'interno di un ambiente molto affollato, una delle issue fondamentali che dovevamo dirimere era proprio questa dell'interazione contestuale di più di un soggetto. Ci sono altre tecnologie, che cosa avete utilizzato oltre a questo? Ci sono moltissime tecnologie all'interno del supermercato. Beh, una per tutte con cui ci siamo divertiti a sperimentare è una mobile app sfrutta i beacon che sono installati all'interno del supermercato. I beacon sono dei piccoli trasmettitori Bluetooth, radio, ce ne sono di diversi tipi, quelli che abbiamo qui in particolare sono sia Bluetooth che infrarossi. Praticamente i beacon, una volta che il consumatore, il visitatore si è profilato attraverso 5 o 6 semplici domande, i beacon suggeriscono al consumatore, al visitatore, quali sono i prodotti in prossimità che sono adatti al suo profilo. Cioè, se io ho risposto alle domande e l'applicazione ha determinato che io sono un buon gustaio, nel momento in cui mi trovo nella corsia dei cereali e della birra, lui mi indica che c'è una birra artigianale prodotta da un birrificio della provincia di, che secondo lui è adatta ai miei gusti. E ovviamente l'esperienza cambia in base alla modalità di profilazione e alle risposte che io ho dato alle domande iniziali. Questo, se vuoi, è uno stimolo su quello che si può fare attraverso la geolocalizzazione all'interno dei nostri punti vendita, all'interno dei negozi, siano essi negozi di alimentari, negozi non food, negozi di qualunque tipo. Sì, poi di questo parliamo. Un ultimo accenno ad altre tecnologie, il robot. C'è anche un robot? C'è anche un robot. È un robot molto innovativo, è un robot di ultima generazione, si chiama Yumi, che sta proprio per You and Me. È un robot collaborativo che riconosce i movimenti delle persone che gli stanno di fronte e reagisce di conseguenza. Nel contesto di Expo, essendo un contesto molto affollato, non lo potevamo lasciare libero di interagire con le persone, per ovvi motivi abbiamo scelto di fargli fare il fruttivendolo, sceglie e prepara delle confezioni di mele. L'idea è che nei negozi del futuro potremo impiegare anche dell'intelligenza artificiale, anche dei robot, ma per cosa? Per fargli fare dei lavori ripetitivi, per fargli fare dei lavori anche faticosi, liberando così il tempo dei nostri addetti per fornire più assistenza ai consumatori, per raccontare meglio, per essere di servizio, per dare un miglior servizio ai nostri clienti, perché molto spesso capita che quando qualcuno è all'interno di un supermercato chieda informazioni a un addetto, che molto spesso è affaccendato a riposizionare i prodotti sullo scaffale. Poi sicuramente si fa di tutto per cercare di fornire le indicazioni, però se quell'operazione fosse svolta attraverso dei robot o attraverso degli strumenti meccanici, chiaramente riusciremmo a fornire un servizio migliore attraverso le persone, favorendo quel contatto umano che, di nuovo, e qui torniamo un po' all'inizio, era tipico dei mercati ottocenteschi e dei mercati medievali. Sì. A proposito del futuro e di quello che poi si può trasferire nel supermercato di domani o di postdomani, ma non di tanti anni, non fra tanti anni, il robot probabilmente non sarà una cosa che vedremo nell'immediato, anche perché se uno lo ha provato capisce, ma del resto insomma sono tutti così, i robot fa cose straordinarie, bellissime, sorprendenti, ma ancora molto lentamente, insomma il fruttivendolo è più bravo e fa prima, quindi ci sarà ancora da aspettare un po'. Ecco, invece che cosa potremmo vedere, cioè in base all'esperienza che voi avete fatto in questi 6 mesi, che poi sono 6 mesi di un progetto che è durato alcuni anni, che cosa vi portate al supermercato e che quindi potremo vedere anche molto velocemente? Credo che l'eredità principale, la legacy principale che ci portiamo dietro da questa meravigliosa esperienza e che abbiamo intenzione di cominciare ad introdurre già nelle prossime settimane è quella dell'etichetta aumentata. Cioè quello che ci ha permesso di capire Expo è che l'attenzione che i consumatori di oggi, che sono sempre più evoluti, sempre più consapevoli, hanno, l'interesse che i consumatori hanno in merito alle informazioni relative al prodotto cresce a dismisura e l'etichetta non è più sufficiente. Occorre soprattutto per certe tipologie di prodotto, sia quelle di alta gamma, sia quelle funzionali, sia quelle che identificano un determinato stile di vita, è importantissimo, direi quasi fondamentale, permettere al consumatore di conoscere vita, morte e miracoli del prodotto, rendendo accessibili queste informazioni nel momento dell'acquisto. Questa è la cosa principale, quindi non ti posso dire che replicheremo questo tipo di esperienza interattiva in un supermercato domani, però ci stiamo già interrogando e stiamo già trovando alcune risposte su come permettere all'interno dei supermercati di far fruire queste informazioni in un modo semplice e soprattutto ci stiamo attrezzando all'interno di Coop per raccogliere e strutturare queste informazioni nel modo più articolato e corretto possibile. Attraverso lo smartphone è probabilmente la cosa più semplice? Questa è sicuramente, delle tecnologie che ci sono oggi, dare la possibilità ai clienti e ai consumatori di accedere alle informazioni semplicemente fotografando il prodotto, leggendo il codice a barre, è sicuramente una delle cose più semplici. A proposito di smartphone, di applicazioni da mettere sullo smartphone, anche voi avete come tante altre catene in giro per il mondo un'applicazione che può essere utilizzata all'interno del supermercato. Allora, per farci che cosa nei prossimi anni, che cosa pensate che possa diventare un'applicazione e soprattutto, ma la gente poi la usa questa applicazione? Beh, nel mondo Coop, da parte delle diverse cooperative sono stati fatti diversi piloti, diverse esperienze. Per esempio è stata usata una mobile app, una cooperativa ha usato una mobile app in sostituzione dei terminali cosiddetti salvatempo. Cioè anziché pistole sparano sul codice a barre per sostituirci noi al cassiere, diciamo. Quindi una sperimentazione, per esempio, per far utilizzare il device personale anziché il device fornito dalla cooperativa per fare la spesa, una sperimentazione di questo tipo è stata fatta in parecchi negozi. Sicuramente la riflessione più importante che si sta facendo in merito all'utilizzo delle mobile app da parte dei retailer per dare servizi ai consumatori è il tema della customer centricity, cioè di fornire opportunità di servizio, opportunità d'acquisto, promozioni sempre più personalizzate nel momento in cui il consumatore sta effettivamente effettuando la spesa. Quindi proporre delle soluzioni di acquisto al consumatore all'interno dei supermercati in base al suo comportamento, in base al punto in cui si trova all'interno del supermercato stesso. Questo è sicuramente un tema che è molto trattato in questo momento quando si parla di tecnologia applicata ai retail. Questa settimana il Parlamento europeo ha approvato una serie di norme che riguardano sia il roaming, quindi quello che noi spendiamo quando telefoniamo, navighiamo dal nostro smartphone e siamo all'estero, ma riguardano anche la neutralità della rete, un argomento molto molto molto importante. Ne parliamo con Innocenzo Genna, che è un esperto di regolamentazione nel settore delle telecomunicazioni in Europa, uno dei nostri esperti a 2024 che questa settimana abbiamo la fortuna di ospitare nel nostro studio. Innocenzo, benvenuto, bentornato a 2024. Grazie ancora per l'invito. Ti ringraziamo per essere venuto nei nostri studi, visto che spesso ci sentiamo a distanza, anche se oramai nel mondo digitale le distanze si riducono, ma essere di fronte in uno studio è sempre piacevole. Partiamo dalle novità che riguardano il roaming. Allora, che cosa ha stabilito il Parlamento europeo e quando vedremo queste novità poi nel concreto? Okay. Il Parlamento europeo ha approvato un accordo che era stato fatto dai rappresentanti del Parlamento e dei governi dell'Unione europea a giugno. In base a questo accordo, tali sovraccosti roaming dovranno terminare entro la metà del 2017, salvo una serie di clausole, diciamo, di salvaguardia per gli operatori, che potranno continuare ad applicare dei sovraccosti entro certi limiti sulla base di giustificate motivazioni. Quindi questa, ad esempio, è una cosa che non si è detta in questi giorni, cioè ci saranno dei limiti in realtà. Sì, diciamo, gli operatori non saranno liberi nel reintrodurre i sovraccosti roaming. Dovranno obbligatoriamente offrire un pacchetto minimo di traffico all'estero senza sovraccosti roaming e sulla base di una serie di giustificazioni potranno continuare ad applicare i sovraccosti, comunque calmierati da un tetto massimo, per un traffico che va al di là, diciamo, di un certo quantitativo. Quando parliamo di roaming parliamo sia di telefonate, quindi di voce, sia di SMS, ma anche di traffico internet. Sì, sì. La giustificazione di questa clausola è che il roaming è qualche cosa che si paga quando uno sta all'estero. Quindi se una persona prende una carta SIM e passa 300 giorni all'estero, c'è qualche cosa di strano, perché evidentemente sta utilizzando all'estero una carta che era pensata per il mercato domestico. Sì, uno degli esempi che si fa è: se io compro, cioè se non ci fossero limiti, io potrei comprare una carta di un paese dove la telefonia mobile costa molto poco, si fanno gli esempi, che ne so, la Lituania, che è comunque in Europa, e io potrei utilizzare quella carta nel mio paese 365 giorni all'anno, il che vuol dire che se fosse così tutti comprerebbero le carte nei paesi dove costano meno, giusto? Sì, e questa infatti è una giustificazione obiettiva, perché diciamo il costo di accesso alle reti mobile in Lituania non è lo stesso che in Svezia o nel Regno Unito. Dopodiché mi rendo conto che da parte dei consumatori ci sarà un po' di delusione, perché loro hanno letto la notizia sul giornale con dei titoli molto più positivi: basta roaming da tale data. Invece sì, sanno che ci potrebbe essere, diciamo, questa sorpresa. Io però non sarei per forza così pessimista, perché comunque da oggi fino al 2017 la Commissione e il BEREC dovranno rivedere le tariffe di accesso alle reti mobili, e nella misura in cui queste tariffe verranno abbassate vi sarà la possibilità per gli operatori di operare più facilmente all'estero, perché quando io do un servizio roaming devo pagare l'accesso a una rete estera. Certo. Ora, più questo accesso viene prezzato al ribasso sulla base di una regolamentazione, più un operatore, ad esempio italiano, ha più libertà di offrire roaming all'estero. Chiaro. Ora, sulla base di questi prezzi, secondo me, aumenterà il margine che hanno gli operatori di offrire un traffico senza roaming. Se questo accadrà, ci sarà a questo punto una concorrenza tra operatori su cui offre il miglior pacchetto domestico e senza roaming. Quindi se questo accadrà, a questo punto gli operatori capiranno che la concorrenza non si gioca anche sulla capacità di offrire questa capacità ai propri utenti. Senti, questi limiti, cioè il tetto oltre il quale noi non possiamo andare all'interno del roaming a zero, quando, chi li stabilirà e quando verranno stabiliti? Verranno stabiliti dal BEREC con delle linee guida. Il BEREC, lo ricordiamo, è l'unione di tutte le autorità delle telecomunicazioni in Europa, giusto? Sì. E queste linee guida verranno recepite da ogni regolatore nazionale, che quindi poi le applicherà nei confronti dei propri operatori. È un lavoro che verrà fatto nei prossimi mesi e che terrà conto appunto della riduzione dei costi di accesso alle reti mobili, che invece viene fatto dalla Commissione Europea. Questa è la versione podcast di 2024. 10 secondi di pausa, riprendiamo tra poco. 2024 è anche su Facebook e Twitter. Cerca 2024 o Enrico Pagliarini. 2024. Riprendiamo questa puntata, che troverete poi in versione podcast sul nostro sito internet, con tutte le nostre interviste in versione integrale. Dunque, stiamo parlando con Innocenzo Genna, che è un esperto di regolamentazione nel settore delle telecomunicazioni in Europa, delle decisioni che ha preso il Parlamento europeo questa settimana in materia di roaming, quindi di quello che paghiamo quando andiamo all'estero e telefoniamo all'estero. Adesso parliamo invece di neutralità della rete. Questo è un tema molto importante, fondamentale. Sostanzialmente è una delle basi su cui Internet è stata creata e si è sviluppata, cioè gli operatori di telecomunicazioni sono neutrali rispetto al traffico della rete Internet. Un po' come dire, sulle autostrade il gestore dell'autostrada non discrimina tra un'auto rossa e un'auto bianca. Tutte le auto vanno tranquillamente e nessuno viene a sindacare, insomma basta che l'automobile sia naturalmente in linea con il codice della strada. Quindi su Internet si potrebbe dire, se tutto quello che avviene avviene secondo le regole della rete Internet, gli operatori di telecomunicazioni non possono e non devono intervenire. Però su questo c'è stato molto dibattito. Il Parlamento europeo ha preso delle decisioni molto importanti. Innocenzo, che cosa è stato deciso? Beh, abbiamo avuto assieme al roaming anche l'approvazione di alcune regole sulla net neutrality. Specifichiamo, perché per neutralità della rete intendiamo la situazione per cui l'operatore di rete, quello che fornisce l'accesso a internet, non può interferire in alcun modo sulla scelta dei servizi internet che viene fatta dagli utenti. Quindi sì, una Telecom, una Fast, una Wind non possono assolutamente interferire sulla mia scelta tra Spotify, YouTube, Deezer o altri servizi che posso avere su internet. E questo è stato fatto appunto in America. In America si sono messe delle regole molto forti affinché gli operatori cavo e gli operatori telecom americani non possono in alcun modo influenzare le scelte degli utenti. Perfetto. Europa. Ora, in Europa la scelta è stata un po' più controversa, però bisogna ammettere che questa riforma ha aspetti positivi e aspetti, diciamo, un po' più... Che lasciano dei punti interrogativi. È vero. Gli aspetti positivi è che è stato ribadito il principio per cui gli utenti devono essere liberi di scegliere qualsiasi tipo di servizio, applicazione, in maniera del tutto indipendente dalla tecnologia, dallo smartphone utilizzato, eccetera, eccetera. È stato anche confermato che gli operatori di rete non possono bloccare o disturbare il traffico che attraverso il quale scorrono i servizi utilizzati dagli utenti. E queste sono tutte cose molto positive. La parte, diciamo, più controversa è quella per cui viene di fatto data la possibilità agli operatori di accesso a internet, dal lato, di fornire servizi specializzati, quindi sostanzialmente di differenziare la qualità di internet che viene fornita ai clienti, dicendo a seconda del servizio ti do una qualità migliore o peggiore. Sì. Secondo, anche di differenziare il prezzo di questo accesso a internet, per cui un operatore potrebbe dire ti faccio un prezzo diverso al tuo accesso a seconda dei servizi che tu usufruisci. Ma questi servizi specializzati che cosa sono? C'è una definizione? Non c'è una definizione, ma non è tanto questo il punto. Si dice che ci sono dei servizi particolari, tipo quelli video, o a volte quelli per applicazioni particolari come la telemedicina, che hanno bisogno di una banda particolarmente efficiente, performante o fluida, garantita. Garantita. Certo. A volte questo fatto è contestato da altri, secondo cui la qualità si può anche raggiungere in altro modo, quindi basta avere semplicemente delle reti con più banda, certo, quindi raggiungere lo stesso risultato. Però questo è stato parte del dibattito. Sta di fatto che adesso ci sarà questa libertà di offrire servizi a qualità differenziata e anche, appunto, come dicevo, a prezzo differenziato. Ad esempio, qualcuno potrebbe dire se tu compri questo tipo di servizi scelti dall'operatore di accesso internet, allora il tuo abbonamento costerà di meno. Se invece vuoi una gamma completa di servizi, allora costerà di più. Paghi di più. Il vantaggio evidentemente per l'operatore di accesso internet è che lui farà degli accordi con degli operatori di servizi internet, dicendo se voi mi date una certa somma voi avrete questa sorta di trattamento preferenziale, perché i miei utenti avranno una serie di motivi oggettivi per scegliere voi e non altri. Quindi, che ne so, un operatore di telecomunicazioni potrebbe andare da Spotify, usiamo questo come esempio, oppure YouTube, e dire se tu mi paghi un pochettino io rendo più fruibili i tuoi servizi, più veloci, garantisco una qualità di fruizione più elevata ai miei clienti. Sì, peraltro sulla qualità obiettivamente è una scelta dell'utente. L'utente potrebbe legittimamente dire: io per i miei video vorrei una qualità garantita, perché ci tengo veramente a vedere video, ad esempio Netflix, senza avere alcun disturbo. E invece un pochino più controverso il perché invece io debba pagare un tipo di abbonamento diversamente a seconda dei servizi che ho chiesto o meno. Certo. Perché in quel caso la qualità rimane la stessa, è semplicemente l'operatore di accesso a internet, perché sulla base di accordi a monte con i provider internet decide di farmi vedere Spotify invece che Deezer, farmi sentire Spotify invece che Deezer, oppure YouTube invece che un altro servizio. Oh, attenzione, non stiamo dicendo che questo accadrà automaticamente, non è perché poi domattina qualcuno mi scrive e dice: ah, ma ho sentito, ho capito che... Infatti, io sto cercando di spiegare quello che potrebbe accadere, ma potrebbe anche non accadere niente. Perché... Quali sono le... perché ci sono delle forti critiche nei confronti del Parlamento europeo che dicono: ah, avete creato una situazione che non tiene conto della storia di internet, che ha sempre garantito la neutralità della rete, e quindi potrebbero succedere tutte queste cose, alcune delle cose che tu hai descritto potrebbero anche non accadere. Ecco, il tuo parere da esperto delle telecomunicazioni a Bruxelles, secondo te succederà, non succederà, sono preoccupazioni esagerate? Innanzitutto spieghiamo che in verità la vera neutralità della rete non è mai esistita, perché tecnicamente gli operatori hanno sempre applicato sulla base di criteri obiettivi dei parametri diversi alla banda internet. Poi va detto anche che naturalmente YouTube può pagare sistemi e banda per arrivare fino a vicino alla casa degli utenti, che io se domattina faccio una startup non posso pagare, quindi su questo non c'è dubbio. Sì, ma ad esempio... è sempre capitato spesso che durante il giorno gli operatori privilegiavano la banda che riguardava la navigazione internet o i servizi legati alla vita quotidiana degli uffici, e danneggiavano un po' il peer-to-peer, cioè quelli che scaricano i video, perché pensavano: è meglio questa cosa farla di notte che farla di giorno, no? Però facendo in questo modo non è che danneggiavano uno specifico servizio. Lo applicavano queste differenziazioni in maniera del tutto agnostica obiettiva, cioè prediligo la posta elettronica, il web surfing, il peer-to-peer, ma non è che andavano a discriminare un certo tipo di servizio. Sì, una marca particolare di servizio. Certo. Invece con l'attuale sistema potenzialmente una discriminazione di questo tipo potrebbe accadere. Ovviamente è uno scenario. È uno scenario perché noi non sappiamo come reagiranno gli utenti. Gli utenti potrebbero essere molto disturbati. Potrebbero protestare in massa. Sì, potrebbero. Nella misura in cui sia possibile, potrebbero anche lasciare un operatore internet per andare da un altro che invece non fa questo tipo di pratiche. Ovviamente ci deve essere la possibilità, perché se il mercato è molto concentrato, è inutile. Ci sarà una collusione da questo operatore. Ecco. Tu cosa pensi che succederà? Ma anche se prevedere il futuro è difficile, però. Dunque, io penso che nel mobile qualche operatore ci proverà, perché nel mobile abbiamo una maggiore concentrazione degli operatori, perché abbiamo o 4 o 3 operatori mobili di rete. Abbiamo anche gli operatori virtuali, che però dipendono dalla rete degli operatori di rete mobile, insomma. Quindi lì qualche rischio c'è, perché sappiamo che qualche operatore, ad esempio in Germania lo faceva, ma anche Telecom, ma su poche cose. Adesso che c'è questo... Più che altro, ecco, spieghiamo questo punto, più che altro vengono offerti servizi con una priorità tale per cui, ad esempio, non viene eroso il monte dati, che ne so, in Italia, Team Music viene offerta senza erodere il monte dati. È evidente che in questo caso questo va contro la neutralità della rete, perché uno è più... viene invitato a usare quel servizio piuttosto che un altro, perché questo non erode il però finché ci limitiamo a queste poche cose, diciamo che la situazione è accettabile. Infatti gli operatori mobili non hanno mai esagerato su queste cose, appunto perché non c'era una certezza giuridica che fossero corretti o meno. Adesso questa certezza ce l'hanno, anche se c'è una clausola di salvaguardia in base alla quale il regolatore nazionale potrà intervenire se ritiene che certi comportamenti di fatto limitano la libertà di scelta degli utenti, ma vedremo come si applicherà questa clausola di salvaguardia. Devo dire che ieri c'è stata, o l'altro ieri, un'intervista dell'amministratore delegato di Deutsche Telekom, il quale ha dichiarato che secondo lui bisognerebbe applicare dei costi addizionali alle start-up che, se vogliono avere un internet decente. Questa mi è sembrata veramente una cosa che forse avrebbe dovuto evitare di dire, perché in questo contesto ha dato fuoco alle polveri, chiaramente. Certo, di tutti. Tu hai citato gli operatori mobili, secondo te invece nelle reti fisse è molto più difficile che questo accada? Sì, perché nelle reti fisse c'è molta più varietà di internet access provider, quindi di operatori di accesso. Quindi lì la capacità dell'utente di migrare verso un altro ISP è molto più elevata. Quindi non penso che in quel settore gli operatori metteranno in atto delle pratiche che sono mal viste dagli utenti. Sì, sì. Molto, molto interessante, per certi versi anche complicato capire tutte le sfumature di questo mercato, perché potrebbe trasformarsi con accordi di vario genere, di diverso tipo. Comunque è certo che negli Stati Uniti si è utilizzata una regolamentazione molto più stringente, cioè non si transige. Sì, ma c'è anche una ragione. Negli Stati Uniti c'è una maggiore concentrazione degli ISP, cioè l'utente americano, quando vuole avere internet a casa, a volte ha una o al massimo due scelte. Quindi parliamo di rete fissa, e quindi in quel caso il potere dell'operatore di rete di imporre quello che vuole all'utente, che non può quindi scappare, lì è molto forte. In Europa, come dicevamo, siccome la telecom locale è regolamentata e deve dare accesso agli operatori alternativi, l'utente ha maggiore possibilità di migrare, quindi di votare con i piedi. Certo. Non è sempre così facile, perché comunque tutti sanno che cambiare operatore non è una passeggiata. Certo, certo. Per una serie di problemi tecnologici, amministrativi, eccetera. Sì. Ma si può fare. Sì, sì. Quindi questo fatto, secondo me, opera come diluizione di eventuali problemi. Sì, diciamo, gli operatori internet sanno che potrebbero perdere dei clienti, quindi almeno nel fisso saranno riluttanti a mettere in atto questo tipo di pratiche. Sul mobile sono un pochino più pessimista, nel senso, del mobile mi aspetto che gli operatori saranno maggiormente invogliati ad aumentare questo tipo di offerte differenziate, però anche lì non sarei troppo catastrofista. Vedremo come funzionerà la concorrenza, vedremo quale sarà l'attenzione dei regolatori, e quindi forse anche i scenari peggiori saranno evitati. Molto bene, io ringrazio Innocenzo Genna per essere stato con noi. A presto, buon lavoro. Grazie, arrivederci. Con il nostro prossimo ospite vogliamo capire come e quanto le aziende italiane hanno compreso che la tecnologia, l'information technology, è un fattore competitivo di trasformazione del proprio business, sia per continuare a fare il business tradizionale, ma anche per innovare e inventarsi nuovi servizi e nuovi prodotti. Saluto Stefano Bossi, che è amministratore delegato di VEM Sistemi. Benvenuto a 2024. Grazie. Voi siete un system integrator importante nel mercato italiano. Fare system integration vuol dire proporre soluzioni, vendere anche soluzioni, software, hardware, ma poi gestirle, accompagnare i clienti, e ce n'è un bisogno incredibile, perché molto spesso i clienti, in questo mondo dove la tecnologia diventa sempre più complicata, hanno bisogno di qualcuno che spieghi la tecnologia. Dunque, recentemente io ti ho sentito parlare di automazione, e visto che noi parliamo spesso 2024, anche recentemente, di cose automatiche che automatizzano varie cose, ma molto spesso cose che si vedono, quindi macchine, automobili automatiche, robot industriali, cose che automatizzano i processi o alcune cose che noi facciamo tutti i giorni, pensiamo, che ne so, ai robot per fare le pulizie in casa. Invece tu parlavi di automazione dei processi, soprattutto software, per cambiare il modo con cui si lavora in azienda. Che cosa intendevi, ma soprattutto che cosa c'entrano questi due mondi e queste due facce dell'automazione? c'è l'automazione anche nell'IT e dell'IT, ma c'è anche una connessione tra le due. Intanto è importante parlarne perché oggi è un concetto ormai pervasivo ed è il comune denominatore dell'innovazione presente praticamente in ogni settore. Come dicevi tu prima, in medicina, in finanza, nei trasporti, nella gestione dell'energia. Pensa per esempio che in finanza si parla di robot advisory, che sono sostanzialmente software adattativi, euristici, che consentono sostanzialmente di sostituire il promotore finanziario nella scelta di una gestione dinamica di un portafoglio, quindi anche un po' inquietante. Diciamo affiancare, così affiancare, assolutamente. In questa epoca affiancare, sì. Poi fra qualche anno invece sostituire. Sì, sostituire è un termine sicuramente forte, diciamo sostituire alcune funzioni, poi. Come in tutti i comparti di automazione, l'intervento umano rimane, perché la creatività diciamo non fa parte dell'automazione. Questo per dire come molto all'interno dell'IT si ritrova anche nell'automazione tradizionale a cui facevi riferimento. Oggi qualsiasi robot contiene all'interno algoritmi software che di fatto sono dei sistemi informatici, e in quanto tali è già un esempio di come l'IT si correla. Ma l'IT, fammi dire, forse la cosa più carina su cui riflettere, che l'IT ha anche una capacità nuova, l'information technology, ed è quello di poter automatizzare se stesso. E cioè? Ecco, questo provo a fartelo con un esempio relativamente semplice. Sì. Per esempio, per attivare un nuovo servizio come la posta elettronica o un sito di commercio online, quindi un web server, fino a qualche anno fa un'azienda impiegava giorni o mesi. Perché? Perché per metterlo in produzione c'era la necessità di acquistare dell'hardware, settarne i parametri e anche di predisporre i locali per, come dire, per ospitare tutto, l'ambiente. Sì. Oggi, grazie all'automazione dell'IT e la virtualizzazione, che è un'altra parola diciamo importante, un po' abusata. Sì, va molto di moda, però va di moda perché è una tecnologia è un disponibile tecnico, sul mercato. Si parla di virtual machine, che insomma, sicuramente nella vostra trasmissione avrete già. Sì, ecco, sì. Questo tempo è passato da mesi a ore e da giorni a minuti. Quindi oggi si può portare in produzione in qualche minuto e questo è chiaramente grazie a tecnologie come le cloud technologies, per capirci. Sì, quindi sicuramente il cloud è un modo per automatizzare bravissimo. Un sacco di cose. Bravissimo, bravissimo, assolutamente così. A proposito di cloud, a proposito di virtualizzazione, tutte queste tecnologie di cui parliamo molto, di cui le aziende che producono queste tecnologie parlano molto, ecco, le aziende che invece le devono usare o le potrebbero utilizzare per trasformare il modo con cui lavorano, e parlo di aziende che conosciamo, che fanno parte della nostra vita, un'azienda che produce pasta, un'azienda che produce tondini di ferro, un'azienda che produce automobili, bla bla bla, eccetera eccetera, ecco, le stanno capendo e le stanno utilizzando? Perché c'è sempre il dibattito nazionale del paese che fatica ad innovare perché non comprende le tecnologie. Visto che voi lavorate tutti i giorni con aziende di ogni genere in buona parte dell'Italia, volevo un tuo parere, ed è anche uno dei motivi per cui ti ho invitato, per capire poi cosa succede sul terreno. Ma dal nostro osservatorio, peraltro, come ti raccontavo, circa il 50% del fatturato della nostra azienda è concentrato nel settore manufatturiero, quindi possiamo permetterci di dire che abbiamo una buona conoscenza del tessuto connettivo industriale del nord, perché diciamo questa è una... Molto nel manifatturiero, certamente. Sì, molto nel nord, anche per la nostra localizzazione. Allora, sicuramente c'è fermento, c'è interesse e c'è anche consapevolezza. Questo lo riscontriamo, soprattutto la consapevolezza che finalmente l'information technology è uno straordinario fattore competitivo da mettere come fattore core, come fattore fondante per il successo anche sopravvivenza a seconda delle situazioni dell'azienda. Ovviamente ci sono dei tassi di difficoltà legati a un po' alla complessità di questi fenomeni. Abbiamo parlato del cloud, per esempio, ma assolutamente anche la mobility è un altro elemento che, vedendo l'automobile... C'è la possibilità di lavorare in mobilità, sì. Per esempio attraverso la videocollaborazione. Ci sono quattro elementi fondanti, il cui collante a nostro avviso è l'automazione, siamo, e quindi abbiamo parlato di mobilità, abbiamo parlato di cloud, le social technologies e anche l'analisi dei grandi moli di dati. Questi quattro elementi sono assolutamente fondanti per l'innovazione, però c'è un livello di complessità. Il nostro ruolo anche come system integrator, come diciamo, parlo come addetto ai lavori insieme a tanti altri system integrator, è di rendere anche un po' semplice l'adozione di queste tecnologie, facendo soprattutto percepire attraverso anche esempi qual è poi il beneficio, certo, e la fruizione di questi. Quindi, nonostante ci sia questa automazione, di fatto le cose sono un po' più complicate. Assolutamente. Perché poi questi pilastri devono dare energia, devono accelerare dei motori di innovazione. Sì. Per esempio, parlavamo prima Robot Advisor, un esempio, ma anche Internet of Things, una cosa su cui crediamo molto. Che siamo solo agli inizi. Sì, sull'Internet, esatto, delle cose siamo solo agli inizi, però i benefici non dico che siano straordinari, ma è straordinaria l'occasione per generare benefici alle aziende e ridare soprattutto al sistema italiano una competitività, guadagnando un gap straordinario. Noi abbiamo perso delle occasioni, adesso sicuramente l'ultra banda larga ci aiuterà tantissimo. Questa è un'occasione che abbiamo come sistema paese, come sistema imprese, come sistema di information technology. Sicuramente Internet of Things ci consente di bruciare le tappe e recuperare un gap, perché ci sono straordinari tante esempi, cose che si possono ci fare. Stanno chiedendo cose nuove ai clienti, anche un approccio nuovo, non ci chiedono più un software o un dispositivo, dico router, insomma, per far capire. Sì. Fammi una rete esatto, wifi nell'ufficio. Cominciano a chiederci di lavorare con loro sul beneficiare di un processo. Secondo te questo accade perché sono ormai costrette le aziende, cioè si vedono veramente circondate, o c'è una consapevolezza vera? C'è la consapevolezza che sull'IT tradizionale abbiamo perso dei colpi, qualunque statistica UE ce lo racconta. Ah, sì. Però, ripeto, questa nuova onda tecnologica, cerco di usare l'italiano, ogni tanto mi scappa, questa onda tecnologica ti fa recuperare il gap, assolutamente, proprio perché c'è un fenomeno accelerante abbastanza evidente, magari dopo con qualche esempio lo possiamo. Sì, ti faccio un'altra domanda però perché hai detto, e io scherzo spesso con i miei ospiti sull'inglese, perché se lo dico anche agli ascoltatori, perché ogni tanto qualcuno scrive e dice: ah, usate troppi termini in inglese, potreste tradurli. È vero, però è anche vero che voi nel settore, diciamo noi nel settore, usiamo tutti acronimi incomprensibili. Nel settore pubblicitario, la pubblicità digitale si è trasformata talmente tanto che uno va ad un convegno e non capisce nulla se non fa parte di quel mondo. Ecco, però da questo punto di vista c'è un problema di chi vende, non dico tanto voi, ma soprattutto chi produce tecnologia, che fatica a tradurre, perché tu fra poco ci farai anche alcuni esempi, e gli esempi sono molto semplici da comprendere, quindi sono un buon modo per evangelizzare, però anche il linguaggio è importante. Il problema esiste, soprattutto tornando a quel 97% di piccoli e medi imprenditori, dove ahimè anche il tasso di scolarizzazione dell'inglese, bisogna fare un po' autocritica, è quello che è, e quindi rischia di diventare alle volte un colloquio tra sordi e muti, nel senso che c'è un uso eccessivo dell'inglese, dall'altra parte una scarsa capacità già di comprendere la lingua, poi figurati all'interno di quei termini che possono assumere un significato fuori dall'IT ed un altro all'interno dell'IT. Quindi questo è un problema che c'è, fa parte delle barriere culturali, peraltro, perché la resistenza culturale è un altro problema, dove probabilmente abbiamo non dico fallito, ma abbiamo perso colpi. Anche il fatto che l'IT, solo ora si capisce che l'IT in generale, oltre al concetto automazione, cloud, alcune componenti dell'IT diciamo più, come dire, oggi più pubblicizzate, ma in generale l'IT non era compreso che era uno straordinario fattore competitivo. Questa consapevolezza nasce oggi, nel mondo anglosassone si è capito, ahimè, molto tempo prima. Esatto, questo credo sia l'elemento differenziante, per cui molte aziende non hanno un referente IT, parlo della piccola e media impresa. Cioè non hanno una persona all'interno con cui... Spesso incredibile. Spesso un consulente esterno che viene una volta ogni 10 giorni, una volta al mese. Un dramma. Cioè poi, attenzione, un dramma, ma capisco anche che ci sono... Secondo me questi sono ovviamente i fattori distintivi strategici tra paese e paese. Sì, magari c'è chi si occupa tutti i giorni di fisco e non di IT, che è invece un asset strategico importante. Sicuramente tutti hanno un consulente legale, piccola media impresa, nessuno. molto pochi hanno un consulente di informatica. Dovessimo fare una statistica, credo verrebbero fuori numeri impietosi. È cambiato quell'atteggiamento? Allora, per anni ho sentito a convegni dire troppe aziende intendono l'IT come un costo e non come un investimento. È ancora così o cambia? È ancora così per un 1 su 2, che è già, a mio avviso, uno straordinario risultato. Ah, tu dici, certo, sì, perché prima era solo costo. Era no, 99%. Lo stiamo apprezzando, lo dico con grande umiltà, anche perché non siamo gli unici, ma nell'ultimo quadriennio ci sono tante aziende IT che sono riuscite a crescere. Allora, se questo è potuto avvenire, siccome di soldi non ce n'erano tanti in circolazione, penso dal 2011 a oggi, significa che in maniera selettiva, anche una crisi può non essere sprecata, fammi dire, in maniera selettiva dove c'è oggettivo ritorno del valore, magari si rinuncia ad altro, però molto più selettiva, sì, perché è evidente che quando c'è poco da investire devi credere nel concetto dello straordinario fattore competitivo, perché altrimenti non ti avventureresti in un momento di grande crisi nell'investire. Questo ha consentito a noi, non solo a noi, di fare bene in questi 4 anni. Sì. A proposito di cosa vi chiedono le aziende, quelle che hanno capito, ad esempio, facciamo alcuni esempi. Ma ad esempio potremmo pensare al... Ad esempio hai parlato di manifattura, che è uno dei vostri settori di riferimento. Ecco, è interessante appunto questo approccio un po' nuovo. È chiaro che poi per fare le cose che racconto serve uno switch di rete, un router, adesso senza entrare, servono tutti questi abilitatori. Le cose però, di base, cioè il computer. Però, quasi... In maniera romantica dico che è bello sentire che i clienti non ci chiedono, non tutti, adesso c'è una componente, quelli più innovatori, che cominciano a dirci vorrei portare la manutenzione predittiva sulla mia linea di produzione, mettere un router a bordo macchina di una macchina PLC, di una macchina automatica, è proprio un approccio. Fatto un passo in avanti hanno fatto. Sì. Cosa vuol dire manutenzione predittiva o preventiva? Entrambe. Però predittiva mi piace. Predittiva vuol dire quello di poter immaginare lo scenario di una macchina di produzione in termini di consumi, di capacità produttiva e anche se parliamo di manutenzione preventiva, con la lettura in tempo reale di dati di soglia, potersi preoccupare quando è il momento di fare poi una manutenzione ordinaria, on site o remota su quel dispositivo. Quindi una macchina che piega la lamiera, sì, esattamente, una cosa facile da comprendere. Alla sua porta Ethernet viene messa in rete, perché adesso c'è la possibilità finalmente di fare tutto questo. L'elemento nuovo, diciamo, anche prima si faceva, se vuoi, manutenzione preventiva, predittiva, l'elemento nuovo è che è in tempo reale, perché always on, sempre connesso. Ci sono dei sensori che ci dicono cosa sta succedendo. Assolutamente dei sensori, ma se vuoi i sensori c'erano anche nel passato, e che adesso questi sensori sono sulla rete. Prima erano in un sistema, dico legacy, diciamo proprietario, chiuso, come la TV a circuito chiuso, a una rete open IP che consente quindi via internet, via quindi un dispositivo mobile, magari con un'app. Io con lo smartphone dico guarda la mia macchina che si sta spaccando. O comunque ho dei dati di soglia che cominciano a insospettire, di qui il concetto del predittivo, di qui il concetto di fare un'azione preventiva. Tutto questo per evitare un fermo macchina. Ecco, sul fermo macchina, fermo produzione, capisci da solo. L'imprenditore arrivato lì dice, quindi tutto questo. E questo è di fatto l'Internet of Things, esatto. L'internet degli oggetti. Esattamente. Cioè, questo è un esempio. È un esempio soprattutto 500. Dove cominciano, ripeto, non ci fanno domande IT, cioè non ci chiedono di portare, perché potremmo fare lo stesso progetto partendo dal presupposto, dire mi serve un router, un oggetto per tradurre o come dire convertire i dati, perché poi adesso cerchiamo di renderla semplice, ma c'è magari l'insieme, un ecosistema di aziende, non è che necessariamente, anzi, chiaro, siamo bravini, ma non siamo, diciamo, tuttologi. Sì, dovete mettere insieme vari pezzi. Però ecco, questo l'elemento nuovo sta in questo, non chiedermi dei pezzi di ferro, consentimi la semplificazione, ma appunto una visione, una soluzione un po' più ampia, più olistica, insomma, più ampia, che quello proprio di dire ma io cosa ci faccio con questi T? Ecco, ci faccio questo. Un altro esempio nel settore automotive che mi ha molto colpito, anche recente, in questo caso siamo in fase di progettazione, è la possibilità di radiolocalizzare i prodotti all'interno delle aree di lavoro della catena di produzione. Sì. Noi siamo un'azienda appunto che fa infrastrutture abilitanti, quindi deteniamo il know-how per poter radiolocalizzare un prodotto all'interno del percorso. Questo perché è importante? Perché se ci aggreghi con questo dato di radiolocalizzare, puoi fermare il prodotto a questo punto in un certo luogo e, adesso mi viene il termine inglese, rendere disponibile, rendere disponibile per esempio al montatore, all'operatore, le istruzioni personalizzate del montaggio di quel pezzo. Che potrebbe non essere sempre lo stesso. Perché, bravo, addirittura diciamo potrebbe essere personalizzata a seconda del cliente che ti ha commissionato quel pezzo. Ah, fantastico. E anche qui, ancora una volta, Internet of Things. Chiaramente, magari VEM non si occupa del software verticale, anzi sicuramente non è così, noi non siamo degli esperti di software di automotive per il montaggio personalizzato, ma per poter fare quello devo poter sapere che in quel dato momento, quel dato prodotto è in quel dato posto. E questo è molto bello. A me piacciono moltissime queste cose, perché appunto si comprende come poi tutto va assieme, cioè tutto è legato, esatto, è olistico, un pezzo con un altro. E spesso automation, perché per fare questo abbiamo parlato di sensori, quindi di dati, quindi c'è una capacità, devi portare una capacità di analisi dei dati, i cosiddetti big data, che è un elemento fondante. L'altro ultimo esempio, poi non ti voglio... Poi sui dati dico una cosa... Per esempio è quello, sempre con una tecnologia molto basica, che è il Wi-Fi, anche questo è un termine... Sì, diciamo, ormai, sappiamo tutti ormai cos'è il Wi-Fi. La tecnologia Wi-Fi già in maniera... c'è un termine inglese che tradurremo embedded, che significa... Sì, è integrato all'interno. Bravissimo, però ormai mi sono abituato a... Ti aspettiamo come consulente inverno a questo punto. Per i termini. Vieni con noi dai clienti a convincere, a evangelizzare. Potresti fare l'evangelista. Io ho detto a volte ad alcune aziende di prendere degli attori che imparino delle lezioni facili e li spediscono in giro a raccontare cose. Poi quando... A questo punto poi uno fa una domanda e dicono no, a questa domanda però chiamiamo i tecnici. Comunque, torniamo al nostro esempio. Dicevo, Wi-Fi, cosa fa? Wi-Fi, ecco, in questo caso è questa capacità sostanzialmente già integrata di marketing di prossimità, tu pensa, sfruttando per esempio le social technologies. Traduco all'interno per esempio di uno store, di un fashion retail, di un negozio. Cosa significa? C'è la possibilità, il Wi-Fi oggi è in grado di leggere, adesso io mando il telefonino perché mi scappano gli esempi, diciamo, dei visu, ma riconosce un indirizzo univoco al mondo per ognuno dei nostri smartphone e da questo può, diciamo, una volta riconosciuto, capire se è ritornato, cioè se non è la prima volta che viene, se è entrato nel negozio, e poi magari integrarlo con un concetto di dire: ti interessa la connettività internet gratuita quando sei in negozio? Dammi un i like su Facebook, per esempio, e io ti connetto. A quel punto ho anche la possibilità di, come si dice in gergo, pusharti, cioè spingerti dei contenuti. Delle offerte. Tutta questa analisi dei dati, della prossimità, della loyalty, cioè della fedeltà, se sei ritornato, sono tutti dati che oggi, in qualche misura, anche con un basso costo di accesso, senza arrivare a software di business intelligence molto costosi, poi dipende dall'azienda, dipende da tante cose. Da quello cose. Che puoi fare, certo. Quindi analisi di comportamento all'interno dello store e marketing di prossimità. Questo già con tecnologie molto Wi-Fi. Molto semplici come poi Wi-Fi, ovviamente sì. Possono essere soluzioni più o meno basse. Ma lo stesso esempio ne potremmo parlare con un responsabile marketing per le filiali di una banca, perché cambierebbero, diciamo, sì, dove c'è gente che entra, ma può non il contesto. Poi, ti faccio un'ultima domanda sui dati. Visto che si dice, anche qui, sparo termini che si sentono spesso, business intelligence, data analytics o business analytics, insomma l'analisi dei dati, noi abbiamo già capito che con tutte le cose che recentemente sono uscite sul mercato possiamo raccogliere una quantità incredibile di dati. Il problema è dire: ma che cosa ce ne facciamo di questi dati? Si comincia a capire, perché molte aziende hanno tantissimi dati ma non li analizzano, cioè non ha un valore lì che non... Guarda, è una riflessione che stiamo facendo anche noi, perché comunque, come dire, devi sempre cercare di progettare anche il futuro della tua azienda, no? Sì. Secondo me la prima cosa, noi stessi, con i nostri clienti, cui ci dobbiamo fermare a rifletterci, è analizzare i processi prima dei dati. Perché? Perché se hai dei buoni analisti di processo, a quel punto capirai i dati che ti servono in mezzo alla miriade di dati che tu hai. Certo. A quel punto dovrai, come dire, elaborare una strategia per rendere selettiva la ricerca di questi dati. Quello che è nuovo è che stanno uscendo tecnologie, adesso qua dico una parola un po' complicata, ma in italiano si capisce, di database non strutturati, cioè il fatto appunto di tutti questi sensori, questa grande superficie, diciamo nuova, che è l'Internet of Things, quindi Internet, Cloud, i sensori, effettivamente ci può essere una mole di dati, come dicevi tu, assolutamente non utilizzata. Però il punto è, per cosa farsene di un dato, appunto prima devi avere una tua strategia di analisi di un processo. Poi a quel punto ti è chiarissimo i dati che ti servono, poi abbiamo il problema, siamo il cliente, di capire come estrarli, e di qui c'è il tema di nuove tecnologie, perché fino a ieri, tra virgolette fino a ieri, per dire fino a poco tempo fa, e tutt'oggi la grossa base installata di database è di database strutturati, significa secondo regole, leggi ferree. E nel momento in cui però sensori, tutto quello che era ottimamente raccontato, diventano non strutturati, anche perché vengono da basi dati completamente eterogenee, come si dice. Certo, allora c'è un po' di caos. Esatto, che va messo, ci sono tecnologie, esistono, ovviamente sono tecnologie, diciamo, d'avanguardia, di ultima generazione, per cui c'è anche un problema di skill, quindi di competenze del nostro mondo dei softwareisti, che non è così scontato trovare. In più, ecco, credo che per fare la differenza, però, al di là dello specialista di database non strutturati, tu debba avere prima di tutto un analista di processo. Questo è interessante. Molto bene, io ringrazio Stefano Bossi per essere stato con noi. Grazie. Buon lavoro, a presto. Grazie. E così concludiamo questa puntata di 2024. Come sempre, grazie per la vostra attenzione. Il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it. Questo è il programma di tecnologia di Radio 24. Torniamo la prossima settimana, siamo in onda il venerdì alle 22, la domenica alle 13.30 o, come molte migliaia di nostri ascoltatori hanno già compreso, è un nuovo modo, è un buon modo per ascoltare o riascoltare la radio, è il podcast, quindi continuate a scaricare il file MP3 della nostra trasmissione. Io sono Enrico Pagliarini, ci risentiamo la prossima settimana. 2024.